dava indicazioni completamente fuori dalla realtà, non era possibile che c'era quell'assorbimento, ci avevi un ronzio di alternata, adesso stai andando bene, la radio è bella, piacevole da ascoltare, pulita. Ok, avanti, il più forte del monte. Adesso berba. Del monte o del mondo? Del monte, del mondo non lo so, ce ne saranno. Quanti dici, mio fratello è il più forte della Sardegna, è uno dei più forti di Sassari, questo tipo diceva. No, no, Luca, del monte è già uno, sei il più forte di tutti dal monte. Verso montagnino, capito, vabbè. Va bene, c'è Pompuglio che è forte, e ci mette i piedi sotto l'aceto, vero Pompuglio, il PL in aceto mette. Magari, adesso ti va bene, Roberto. A me va bene, ma abbassa un po' le voci o abbassa il Mickey Gay? Ma Picchidio lo metti in accetto. Picchidio la grossa non ci mette in accetto. Beh, Antonello è invece uno di quelli che può uscire alla grande e poi ogni tanto ne toglie i figosi, mamma mia. Quello è l'apparecchio omologato, non ci posso fare niente, l'ho comprato per non spendere molto, che non me ne frega niente. Capito? E gli altri apparecchi già ce li ho, già lo sai, c'ho il 4000, c'ho questo, la nota 87 e l'Oto 57D, gli avevi bastano. Ma questa è bella la radio, bella, chiara, pulita, ma molte volte non so con cosa esci, ma non se ne comprende nulla, ti dico sì, allo stadio, dentro qualche cantina, in qualche cosa, perché stai sempre toccando e facendo. Adesso la radio 100% ottima. Roberto, dimmi. Ma a volte eri scappato? Lei doveva fare cosa, è stato 5 minuti, ha salutato e poi se n'è andato. Non posso stare 5 minuti a mangiare che scappa, Dice che sei il più forte di tutti, che arrivi più forte di tutti, ha detto Walter nelle sue coordinate, a parte vabbè, di quelli che ci avvicino, diciamo dalla città sei quello più forte, hai visto? Piano piano stai schicchiando a tutti. Lo so, l'ho sentito il finalino, poi mi hanno chiamato in forza a mangiare e ho sentito solo quella parte e poi non so cosa avete detto. No, già lo sapevo, io non ne dubitavo. Riccardi, sei una potenza adesso con quell'antenna e con quel tipo di baracchino, stai andando più che alla grande. Ok, io direi lasciamo un attimino di bianco, facciamo una chiamata generale se qualcuno vuole entrare, se no riprende il mic Antonello che passerà a Marco Condo. Attenzione, su 10 chi vuole entrare. Vai Antonello. Ehi, ho fatto quel baracchino là stasera col DM1000, con l'omologato. Esce bene per fischia, cazzo. In treno sembra. Sente la voce bene dalla colonnina, quindi non si adatta. Ma questo che baracchino? Questo è la 87. Questa è una bomba, cavolo. Che microfono c'hai? Sperpa, CM40. Questa è un'ottima radio, eccellente, dai. Avanti, grande Marco. Marco sta mangiando. Marco, fai Luca. Seria. Massimiliano non c'è. No, io non l'ho sentito, ieri di sfuggita, poi se n'è andato, ma poi sono entrato io, stavo andando via tutti, ho sentito a Giulio un attimino, Gianni doppio, Claudio sta mangiando e basta, non sento più, mi dispiace a, come si chiama, aiutami, quello, l'Urubrofetta, Gianni Urubrofetta e Nicola l'ho sentito l'altro giorno, che stava arrivando forte, eppure stranamente più forte dell'altro, Franco lo stesso sono da un po' che non lo sento, e vediamo un pochettino se rientra, avanti Riccardo. Okay, non so, stanno scomparendo adesso che stanno riaprendo le frontiere, stanno tutti scappando da casa e quindi sono tutti fuori a svagarsi e quindi stanno mancando molti cibi. Eia. Comunque Luca, e poi aspetta come inizia la bella stagione, ne vedi gente che la notte sarà stanca dal mare e ci avrà un po' di difficoltà a attaccarsi alla radio. Adesso per il momento, finché ci sono queste limitazioni, la sera un po' ci va qualcuno, dai, poi ritornerà tutto povero come prima. Ok, vediamo un pochettino, Luca se rientra. Enrica, hai sentito cosa ha combinato Giovanni? No, non l'ho sentito, cos'è successo? L'altro giorno hai sentito che la radio non funzionava, con la radio bibanda, per le V e le U, tutto quanto, che sino al giorno prima funzionava. Cacchio, ci ha infilato il PL di un altro tipo di PL al posto del suo originale e ha sfondato tutto dietro, per forza non funzionava la radio. Oi. Da un radioamatore, una persona che una vita a mezzo alla radio, sono rimasto a bocca, io gli ho detto dall'inizio, attenzione che quello lì non mi sembra, no è tutto a posto, il pezzo che ne è uscito è questo, detto, che strano, e invece alla fine era quello il problema, Va bene, dai, mi portate che abbia risolto e ha salvato una radio, tra l'altro anche una radio che costa abbastanza. Ho capito, comunque stavo ascoltando diverse volte che i discorsi che voi iniziavate con i portatili, come ho detto sempre, meno male che io ho già trovato un po' la roba pronta, ho aperto un baule e c'era già un po' di radio. Sì, assolutamente, tu sei stato già avvantaggiato. Vabbè, il portatilino io l'ho usato qualche settimana, poi subito mi hanno regalato una LAN 48 appena comprata e poi da lì sono passato subito alle altre, il patch dopo qualche settimana e poi sempre di più, dai, piano piano. Ok, e tu sei stato molto più fortunato di molti perché avevi già una base di partenza più che buona e poi adesso c'è qualcosa di veramente buono. Ok, Antonello, facci sognare. Allora, lui ha avuto culo. Io mi avevo comprato tutto da Bugino, il Pace 123, la Grand Play, l'ho piazzata e per la Vidale. Insieme a me c'avevo coso, Francillo nello stesso palazzo. E riuscivamo tutti e due con la Grand Play. Una Grand Play 8 radiali c'avevo io, lui aveva una la 4. Una Grand Prix con 8 radiali. Infatti mi chiamavano, cosa c'hai, andava nel tornaio. Ma tu dicevi che chiavi fuori, tu eri via Lopiferra, quelle zone lì vicino ai carabinieri. Mi sento per esattezza, di fronte al manicomio. E dove via Rizzi? Dove c'è il fabbro Pilo? Più avanti, dove c'è il bar di Capras. Ah, ho capito, verso il manicomio quindi tu sei, salendo diciamo da Via Alghero verso il manicomio, tu superavi il fabbro vicino ai giardini, dai, prima del giardino. Ehi, prima di fare con la scuola, ma tutto quanto campagna lì, capito? Comunque di Savolite, già dopo mattina, parlavo tranquillamente con Cagliari da lì, la zona del centro Sardegna. Allora c'era parecchia gente, lì dopo Alghero, Mosa, Posa Marina, io ho fatto di quei collegamenti, parlavo tutti i giorni con gli spagnoli via lì, tutti i santi giorni, no? In diretta, mattina e sera, mattina e sera. E immagino, l'antenna ce l'avevi molto in alto. No, era 3 metri di palo ci avevo messo. Ma che antenna avevi, la Grand Prix o la Mantova? La Grand Prix, poi dopo che si era tagliata quella mi avevo piazzato la mia 27, l'avevo comprata, avevo installato quella. Ma chi c'era forte all'epoca che si chiamava forte? C'era Vittorio, Walter, Claudio e poi chi c'era? Gianni Vessoli, ci va anche bene lo stesso, Angelo Delfino, che era di Via Alghero. Abbastanza, diciamo, c'era la gente. Io ho conosciuto, anzi conosco bene, quello che si faceva chiamare Super Pippo e lui diceva che era la frazione più forte della provincia di Sassi. Ma ah, dire faccio una cagata, Super Pippo, cazzo, la più forte di Sassi, abitava in via Cunizia l'ultima volta lui, poi non so dove abita adesso, per carità, se lo sovrammodulavano tutti lo sovrammodulavano. E lui stava giù in via Cunizia, però c'aveva un amplificatore grosso, diceva. E quello che ce l'avevo io, e c'è tutta l'acqua a casa, il BV 2001, l'MK3, 600 watt. Io uscivo sempre con il 680 che mi ha dato Claudio, e attaccato al 680 ci attaccavo il lineare, il BV 2001. E non ho mai bruciato l'apparecchio. Anche cosa? Adriano spingeva pure, così? Adriano usciva forte. Ma non si è più sentito, ma ancora si trova? Sì, ma non entra più, no? Non ci potete più entrare a baracchino, boh, non so perché. Capito? Ha mollato tutto, non gli frega più niente. L'antenna mi sembra che ce l'ha ancora piazzata a casa sua lì in via Sosso. Ma lui era un tecnico, un bravo tecnico o solo appassionato? No, già bravo tecnico, sia per baracchini sia per apparecchio HF che che cosa, che computer, capito? Già si divertiva già. Ehi, allora Riccardi, anche tu piano piano diventerai torre di controllo. Che avanti? Era per la nostra da questa. Fabio, ben sentito, segnale tuo, sempre per me, troppo basso per quanto dovrebbe essere, però se 9.15 c'è questo rumorino sotto di alternanza. Diciamo che è un miracolo che stiamo iniziando. C'è anche Antonello Pompugno e Riccardino. Ok, sono Riccardino, saluto Antonello, mi sono cambiato azione, già. Io ti ascolto comunque, Fabio. Ci arrivi. Me l'hai scucito anche a te. Sì, Carlo, l'hai ascoltato a Fabio? Sì, l'ho ascoltato e lo saluto. Ciao Fabio, comunque. Sì, Robè, l'importante è che mi ascoltino, perché è brutto quando ti dicono che non ti sentono. Gianluca, quando ti arriva per curiosità Fabio, Riccardo? Fa un passaggio. Riccardo, ora, 1, 2, 3, prova passaggio. Se, il Santiago è di 7, la radio è 4, però va bene. E a te, Antonio, quando ti arriva? 9:20 arriva, radio 4. Ma ti rendi conto, cacchio, tu sei più in su di me, lui a 200 metri, a me mi arriva a 9 più 15, la radio è 5, è perfetta, anche se è brutta, nel senso non è esente da disturbi, però non ci sono difetti, diciamo, di QRM, la radio è 5, però c'ha questo difetto di ronzio, un po' cupa. Però cacchio, mi arriva a 9 e 15, siamo a 200 metri di distanza, assurdo, eh. E io quanto ti arrivo, Fabio? Allora, siccome in questa versione ho un amministratore passaggio, 1, 2, 3, prova radio, canale 10. 30 seduta 40 di picco. Io mi immaginavo che tu arrivassi almeno 9:30, ma proprio per volerti male, considerando che un pugno mi arriva a 9:60. Sì, ma io ho visto che avevo il TPH. Tu sei esattamente dietro il palazzo, nel senso che prima di arrivare a te devo rimbalzare sul palazzo di Davanti, che a sua volta all'angolo, perciò se tutto è chiuso, se passo in avanti fosse piatto, allora quello delle miglia. Sì, sì, immagino ci deve essere qualcosa che ti fa da riflettore, cioè che ti chiude proprio completamente, mentre ti apre per la parte di coso, di Antonello, cacchio, ma è una cosa illogica, considerando che siamo vicini, cioè se noi ce la facciamo alla finestra, se non ci fossero le palette davanti ci saluteremo sicuramente. Non ci posso le palette davanti, tu che sei lì, io che sono qui, sì, sì. Guarda, c'è tutto il mio palazzo, c'è tutto il palazzo di dietro, che sono delle case di cemento armato, che logicamente bloccano tutto. Devi contare che sto parlando con Stazionario 28, è sufficiente. Vabbè, diciamo c'è anche altre situazioni un pochettino, infatti quel rientro probabilmente è dovuto a quel fatto lì, quella specie di innesco, strozzatura, dai. Ok, io direi di far riprendere a Luca se c'è ancora. Avanti Luca. Non c'è, chi c'è rimasto qua, oltre Antonello, Riccardo e Fabio? C'è qualcuno ancora? È iniziata la crew. Beh, ti spariti, sì. Cacchio, se chiamiamo 10 volte non entri, adesso detto, c'è Luca, rilanciamo Luca e non rispondi, va, e la dire tutti spariti. Dai, tornano dei messaggi. Avanti Marco. Oh, io non le sto più capendo niente, sto andando, venendo. Vabbè, oggi giornata strana, Ma nelle vostre coordinate è giorno a quest'ora, Marco? Sì, sulla West Coast praticamente è iniziato a imbrunire. No, sta lasciando il sole. Vabbè, avete parlato in due. Comunque, Robè, l'altra sera ho sentito l'annuncio della, hai dato della ISS delle 10:15. Beh, mi ero prefissato di salire in terrazzo, sono riuscito a perdermela ed ero senza far nulla, me la sono persa. Cielo era terzo, niente. No, l'abbiamo vista benissimo, ti posso dire, velocissima a spostarsi, non era luminosa come quella volta che l'ho vista, che penso sia praticamente impossibile vederla così grande, però tu la vedevi a vista d'occhio a camminare, sembrava un aereo, è durata poco più di 4 minuti il passaggio. Figurati, io mi ero preparato il binocolo, poi mi sono distratto un attimo, tutto va avanti. Chi ha parlato con, assieme a Roberto? Io ho fatto tutto il tuo, Marco, anche volevo dire un attimo, non avevo distratto, insomma c'è una voce registrata della ISS, sì, di Nespoli, di Paolo Nespoli, egli ha tu personalmente non c'è una voce registrata, cioè praticamente c'è la mia differenza. Sì, no, in realtà sono un bot, io ho un bot automatizzato in Italia che trasmette indifferita i messaggi. Poi l'avevo intuito, perché stamattina alle 11 ho detto, beh, oggi ho fatto colazione, ho detto, cazzo! Beh, mi sono alzato alle 11, figurati. Io mi stavo ascoltando la radio QTH, quello con i genitori da portarsi, no? Non potevo neanche entrare, però mi stavo ascoltando, dai. Oh, yeah. Oppure se non rispondo è per via del satellite, ci sono 2 secondi di ritardo, capito? Sì, l'avevo capito. Vabbè, comunque Sì, io sono contento che la voce è registrata, così almeno ce l'abbiamo, facciamo la registrazione e semmai ce la facciamo anche riascoltare. Tipo Falcone. Tipo Falcone, sì. Mamma mia. Riccardino, tu sei registrato. Aspetta, Luca, dimmi. E guarda il messaggio su WhatsApp, la differenza, allucinante. Ehi, ciao, Fabio Ma. Bella Luca, ciao a tutti. Tanto, avanti, Riccardino, ci sei? Sì, ci sono, gli volevo dire sì, sono registrato, so già cosa dire, ho fatto una registrazione prima in vocale e adesso lo sto facendo ripartire in loop. Comunque l'IFS Marco passa alle 22:16 sopra Monaco di Baviera, qualcosa si vede se c'è le pulito. E oggi non fa, dai. Hai visto Marco? Sì, un attimo, sto guardando. Cosa vuol dire registrato, Luca? Non ho capito. Guardando. Luca, cosa vuol dire tu sei registrato? Fabio, perché avete detto sei registrato? A riguardo di che cosa? No, non lo so di cosa stavate parlando, non ho sentito registrazione, così ha detto, non lo so. Cosa state guardando? Non lo so. Io dicevo che è registrato anche il cardino, perché Marco ha un fuso orario particolare, il regista poi si manda. Sì, ma non ho capito di cosa state, guardando su internet. La stazione spaziale, Luca. L'altra notte, domenica, era bellissima da vedere perché è passata all'altezza dell'Italia, la parte alta dell'Italia, verso la Liguria, si vedeva molto bene, la vedevi proprio velocissima a passare. Adesso la giugavizia, buona l'acqua. Sempre in vita non va bene. Adesso a che punto è? No, ancora lontana, alle 22:16 passa sopra Monaco, diciamo non ha la visibilità di domenica scorsa, però è buona, si può vedere abbastanza bene, dai. Ok, vai Riccardino. Aspetta Riccardo, dimmi il sito Roberto. Aspetta un attimino, ti devi scaricare l'applicazione però lui. Ah, ma sul telefono. Se lo vuoi vedere in diretta poi ti vedi come la vedono loro, la terra, ti puoi mettere fotografare la zona, è bello perché sono là in tempo reale, per dire se passa sopra la Sardegna, per dire, o sopra qualche continente, tu ingrandisci e ti puoi fare la fotografia di quello che vedono loro. Dimmi l'app, dai, non la scarica. Visto che ce l'ho qui a portata di mano, si chiama ISS Live Now. Come? ISS Live Now con la W finale. Ah, ho capito, sì. ISS Live Now, ok. Installa. Adesso è vicino il mare aperto, nell'oceano, sta per arrivare sul Cile. Devo registrare, no? Sì, vabbè, no, vabbè, devi installare e basta. Devi avere la posizione, Luca, devi mettere la bussola, cioè il GPS, se no non funziona. Sì, ovvio, lo vedo in diretta, sì, stavo bene, infatti. Verso il Cile, giusto? Sì, l'hai visto, c'è latitudine, longitudine e velocità. Sta camminando a 27.553 km/h. Cioè, come una lumaca zoppa. Sei presente che nell'arco della giornata passa 15 volte nello stesso punto, per dire, oggi è sulla Sardegna, ci passa 15 volte nello stesso, vabbè, diciamo lo stesso punto, nella stessa zona, al punto no, perché cambia continuamente traiettoria, l'hai visto? Oggi Mario è sopra la Sicilia, domani è sopra la Liguria, poi l'Italia non ci passa, è sopra la Germania, così. E domenica era proprio, passava esattamente sopra Verona, ha fatto Barcellona, Verona, e poi ha proseguito nei paesi baltici, dai. Oh, Robè. Dimmi, Riccardo. Ma ti volevo chiedere, cos'è lo scopo alla fine di questa satellite, o come si chiama più o meno? Ma qua fanno soprattutto, diciamo, esperimenti scientifici, fanno in assenza di gravità, tante cose, come reagisce il corpo umano in mancanza di gravità, fanno delle prove di crescita di piante, tante cose, anche osservazioni astronomiche, eccetera, eccetera, perché il futuro, diciamo, la prossima missione è quella di andare verso Marte, però per andare verso Marte ci vogliono 3 mesi di cose, di viaggio, 3 mesi a andare e 3 mesi a tornare, se tutto va bene, per cui devi stare minimo 6 mesi tra il viaggio all'andata e il ritorno. Se poi ci rimane qualche giorno in più di lì, ci vuoi, devi calcolare, per cui devono vedere tutte le reazioni degli astronauti in assenza di gravità e tanto tempo distanti. Se presente da Marte alla Terra, quando tu trasmetti un segnale ci vogliono 3 minuti arrivare, tu dici ciao e a loro gli arriva dopo 3 minuti il segnale, per cui ci sono un sacco di difficoltà tecniche da superare. Stanno cercando di migliorare, perché la velocità della luce è di 300.000 km al secondo, la distanza è superiore alla distanza, diciamo, ci vogliono 3 minuti in parole povere per coprire quella distanza. Dalla Terra alla Luna sono 300.000 km, ci impiega un secondo il segnale a viaggiare, quasi istantaneo, ma quando ti arriva dopo 3 minuti un messaggio non è poco, per cui ci sono tante difficoltà da superare, a parte le alimentazioni degli astronauti, l'acqua, eccetera eccetera. Praticamente è una stazione sperimentale per fare tutti questi esperimenti, incredibile. Ma ti è presente, è grande 150 metri, non stiamo parlando di una cosa piccola, una cosa, il più grande oggetto artificiale che c'è nello spazio, non esiste nessuno, niente di più grande di questo. Se c'è la trattazione cinese pare sia sui 45 metri e non è piccola. Qua stiamo parlando di oltre 150 metri di lunghezza per 60 di larghezza, una cosa, no, non 150, pare sia 110 per 60, quanto un campo di calcio, delle dimensioni enormi. Ci sono in questo momento solo 3 astronauti, ma certe volte ce n'erano anche 9 dentro, è una specie di palazzo, un appartamento un po' grandicello, dai. Che avanti. Poi naturalmente queste sono cose che possono piacere o non piacere, io è una di quelle cose interessanti che mi piace vedere, ascoltare eccetera, sto cercando di captare il segnale. Infatti ieri domenica quando sono passati ho messo il ricevitore impostato sui 145,8, però purtroppo non ho sentito niente, mentre carissimo Marco, lui ha avuto il piacere di ascoltarlo e ha mandato la registrazione, veramente molto ma molto chiara e pulita. Addirittura, ma di che segnale? Sui 145-800, la comunicazione della stazione spaziale, e c'era gente che dei radioamatori, anche delle scuole, diciamo molte volte si collegano con degli istituti e dove ci sono magari degli allievi che fanno delle domande, e questo chiedeva delle informazioni, si parlava un po' in generale di tutto e loro rispondeva, c'era l'astronauta italiano che in quel momento era il comandante, non so quando l'abbia fatta quella registrazione, ma penso forse l'anno scorso, mi immagino, e di lì ti parlano. Poi ci sono radioamatori che addirittura parlano, Marco, uno di questi che entra qua in frequenza, lui è uno di quelli che si può vantare di aver collegato la stazione spaziale, e non è da tutti, perché ci sono attrezzature molto ma molto sofisticate, ti è presente, rimangono in collegamento per pochissimi minuti, in 3 minuti devi fare delle regolazioni istantanee, modificare il movimento dell'antenna, perché sono guadagni molto direttive, sono come antenne, per cui il fascio di radiazione è strettissimo, devi cercare di seguirla col motore, come si muove tu ti devi spostare, se no la perdi completamente. Ho capito, incredibile, molto interessante, cioè, l'avrei voluto fare io questo ascolto, tipo queste scuole che fanno l'ascolto, domande, molto interessante. Sì, assolutamente, infatti l'hanno fatto, adesso non mi ricordo esattamente quando è stata fatta, un istituto tipo le professionali, un istituto così, di scuole di elettrotecnica, adesso non mi ricordo, hanno fatto proprio un collegamento, c'erano gli allievi, una classe dell'ultimo anno, prima del coronavirus è successo, ha fatto, non so se era un istituto della zona di Napoli, Caserta, adesso non mi ricordo esattamente, hanno fatto il collegamento dalla scuola, è stata una cosa molto ma molto interessante, perché non capita tutti i giorni, soprattutto di passarti così vicino e avere la possibilità di collegarti, è un po' critica da fare il collegamento. Dai. Ok, facciamo riprendere, chi è rimasto qua? Marco, ci sei? Marco, c'ha il fuso orario di 8 ore meno, vai Fabio. In playback. Chi c'era? Luca, ci siamo ancora? No, io già ti ascolto, non lo so. Antonello, sì. Antonello gli è caduto un fulmine sull'antenna, le ha incenerito tutto. Ah, Natale lo ripassano con le linee di alta tensione, mamma mia, il giorno che ci cade un fulmine scioglie tutto. A noi, però, ragazzino, dove sono il posto di lavoro io, non so se l'hai visto, ero proprio un ragazzino, c'aveva avuto 10 anni, 12 anni, è caduto un fulmine, prima c'erano le linee della bassa tensione che passavano intorno al palazzo dove c'è l'officina, gli è spartita questa scarica, ha troncato il 2 il cavo, e dovevi rimbalzare in terra tipo film di Ritorno al Futuro, ti ricordi quel cavo in terra uguale? Cioè, guarda, ha fatto un'esplosione, cacchio, l'ha tranciato di netto, perché prima passavano il giro intorno alle case, non erano sottoterra interrati, e la bassa tensione, diciamo, era attaccata al muro, cacchio, ma l'ha tranciato un cavo grosso, sarà stato un cavo di spessore, da 15, vabbè, con tutto l'isolamento forse anche di più, e l'ha tranciato di netto. Ok, vai Riccardi. Comunque stavo guardando, ovvero deve passare tra un po' il satellite o come la stazione astronautica sperimentale. Sì, mi sembra alle 22, aspetta, lo dico in diretta. Alle 22.16 e passa, il picco è alle 22.19 e finisce alle 22.22, c'ha un passaggio di poco meno di 6 minuti, 5 minuti dura il passaggio, però non è eccellente come era domenica, diciamo è a tre quarti come visibilità. Lo so, qui è coperto, è tutto nuvoloso, stava anche piovendo, quindi non penso che la vedremo questa volta, spero che si liberi all'ultimo momento, ma non credo proprio. Guarda, cioè il punto massimo è giovedì 21 alle 20.40, proprio quando sta iniziando all'imbrunire, e questo vado a vederla sicuramente, perché quando c'è il crepuscolo che sta iniziando a abbassarsi la luce non ci sono altri disturbi, e cacchio si vede, c'è il picco massimo alle 20.40 di giovedì ed è quasi al 100% di visibilità, probabilmente è come quella volta che l'ho vista io, e bisogna andare a vederla allora. Perché ho visto che hanno messo bel tempo per il fine settimana, quindi si dovrebbe vedere proprio bene. Sì, è miglioramento, già da domani migliora la giornata. Sì, il picco ce l'ha giovedì, dopo domani, alle 20.40, diciamo quando sta iniziando a tramontare il sole. Ho visto, però io non l'avevo mai vista quando tramonta il sole, avevate vista voi, perché non sapevo neanche l'esistenza di questa stazione sperimentale. E quindi voglio vederlo anche al tramonto, dice che è proprio bello quando sta tramontando, quando c'è il crepuscolo. Sì, no, guarda, io ti dico, l'avevo vista altre volte d'estate, però come una stella, un po' più luminosa della stella, però vederla tipo una grandezza di un elicottero in lontananza, argentea, proprio luminosissima, che sembrava un UFO, un oggetto non identificato, perché poi c'ha una forma tipo la carlinga di un elicottero, c'ha con la fusoliera dietro, un po' rigonfiata davanti, non mi è mai capitato, ho fatto la fotografia col cellulare, però non è che rende più di tanto, ci vorrebbe un teleobiettivo, però la prossima volta mi metto il cannocchiale e voglio vedere un pochettino meglio, dai. Sono di quelle occasioni, ma non è che ti capitano spesso. Ok, vediamo un pochettino se è rimasto Luca, se no va Antonello, vai Luca. Sì, sono qua, sono un'occhiata là. Eia. Ok, cosa volevo dire? Riccardino, Antonio ci sei? Marco, manda il CD della registrazione. E oggi, come non male, il QRM è basso, raramente, e oggi è basso a 4. Cosa c'hai tu, Fabio, di Baracchino? È un po' meglio, sta un po' gracchiando, però adesso è un po' più chiara, quella è bellissima con la radio. Quello centrale, quella specie di indicatore centrale è per il clarifer, così confermi. Ah, il clarifer funziona, sono ricezione, trasmissione. Bella. bella, mi piace tantissimo, veramente una bella radio. Aspetta, c'è qualcuno sotto, avanti che vuole entrare, boh, c'è qualcuno lontano in propagazione, va bene. Ok, io dai, aspetto qualche minutino, vai Riccardo. Anch'io fra un po' vi lascio, resto altri 5 minuti che poi vado dentro e mi guardo anche se c'è un pochino di propagazione. Oggi mi sa di no, ieri sì, oggi non tanto. Riccardo, tuo padre, mettili in macchina qualcosa che deve portarmi domani mattina, ricordatelo. Sì, glielo ricordo, glielo metto già in macchina da stasera, più tardi come vado dentro, come sto per andare dentro, visto che anche secondo me non c'è propagazione, lo metto dentro la macchina. TM1000 ricordati, non l'altro. Ah, pensavo tutti e due, avevo capito tutti e due, vabbè, solo il TM1000. Quello più importante è il TM2000 dei due, un pochettino meglio, dai, non dico che sia un granché, ma un po' meglio, almeno si sistema quel PL che ha contusso, quando te lo dicevo ti ricordi all'inizio, secondo come muovevi, cioè bisogna sistemarlo bene, dai, le cose devono essere ben fatte, efficienti, le masse devono essere attive, no? A seconda di come lo regoli o come lo muovi. Ok, va bene signori, io adesso vi devo lasciare, che sono un po' stanco, ieri ho dormito anche un po' maluccio. Ciao Fabio, ciao Riccardo, ciao Luca, ciao Antonello, Marco c'è il fuso orario, l'ha svegliato, sono saluto anche a lui e eventuali amici qua su canale 10, QRT definitivo la pandemia, ciao ciao a tutti. Ok, ciao Roberto, a più tardi, anch'io mi sa che lascio e vado dentro, saluto a tutti, Fabio, Luca, Marco e a tutti gli altri in ascolto, se ho dimenticato qualcuno, ciao a tutti e ci sentiamo domani. Ciao Roberto, dai, ciao Riccardo. Addio, domani, buonanotte. Ciao a Fabio, Pomponio e chi c'è rimasto. Ciao ciao. E sì, rimango 10 minuti ancora, e poi mi guardo un programma. Tutti andati a dormire? No, ero nell'altra camera, che qua è un bordello. Cavolo, sono già le 10, se credo fossero le 9 ancora, figurati come sto. Aspetta, messaggio, un attimino, aspetta, c'era Pomponio anche, ma Giovanna non sta più entrando. Va bene, importante lavoro poi. Addirittura. Che apparato stai usando Fabio? ma quella cosa indicibile. Quella faiette minuscolo, no, non è quello. Sento un bel rumore atmosferico sul fondo. Tu sei Santiago 9 a questo smitter, magari è un po' generoso, dovresti essere sull'8, 8 e mezzo. Ho regolato lo squelcher perché mi stava facendo sordo, poi la NL non lo tengo, io non lo metto. Luca, c'è ancora? Ascoltalo un audio, aspetta. Mamma mia, la gola mi ha preso di nuovo, che palle, guarda. Vieni avanti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sai che questa la sembra più chiara, più limpida, l'altra era un po', a parte che era un po' bassa, cioè Luca mi faceva sordo, ma sordo davvero, per te ho dovuto alzare e per lui abbassare. Mi sembrava quasi migliore dell'altra, così a caldo mi. Non so cos'è. Aspetta. Si è incendiato tutto. Ciao Antonio. Fabio, cos'hai toccato? No, niente, io ho modificato la porta. Antonio, fai da ponte che lo sento nel corremme. C'è un bel corremme elettrico, elettrico proprio, eh. Nulla, nulla, siccome ma questa è la squadra, non ha risposto più agevato, ma si è incendiato tutto. Tu che Fabio, se ci do Marco, ti siete in mezzo a quella remme adesso, ti senti? Capito? Scarica elettrica, capito, non è passi, quindi l'audio è talmente basso che ti sento basso basso di radio. Sì, Marco. Vedete, si è incasinato lui. Antonio, dimmi che modifica ha fatto, cosa ha cambiato lui, perché è sceso il segnale? In pratica ha fatto un attacco di per agganciare qualsiasi microfono a quell'apparecchio, capito? No, quello l'ho capito, ma un attimo fa arrivava e un attimo dopo non arriva più, e te l'ho detto, quel rem elettrico, un po' rumorosetto qua. Senti che si è attaccato l'altra baracchina. Ahia. Prova. La cipolla, ora la cipolla. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Quello cos'è? Il 3009? No, no, 3009 non ha l'ecco. Questo è il 5005. K. Ah, K, 5005, già funziona, già funziona. Antone, dimmi la differenza tra... purtroppo c'ho l'autoascolto, tra 10 cm come adesso e vicino come adesso, a parte che sta fischiando, va a Napoli. È più forte quando ti avvicini, è logico. Se è sceso adesso il segnale fa 8. Come mai tutte quelle stazionali? Non dovresti avere problemi con l'antenna, è tarata dalla fabbrica, esce bene. Adesso sei salito 9.10. Ehi, è salito anche qua, Luca, ci sei? Ciu. Questo Marco mi manda la foto del coso, del disegno del Marco, marcato c'è del 2009. Così mi faccio fare il doppione della tipografia. E glielo metto con il 4000 dietro. Sì, se vuoi ti passo lo scanner con l'adesivo laminato, lo stampiamo laminato uguale lo applichi dietro. Tu saresti capace, mi. D'altronde tu non avevi omologato un cos'era? Un FT7B. Esatto, siccome c'è con il 4000 e le quelle 4000 che mi hai dato tu, ci ho messo la maschera del 2009, capito? Delinquente. Allora, se avevi avuto la foto di quella adesivo lì, se avevi avuto di tipografia, mi avrei fatto fare uguale. L'adesivo preciso mi sarei fatto fare. Prova. Non è appena. Attacca il 2006, Fabio. Attacca quello come baracchino e sistema bene l'antenna per... Il segnale è anche la radio, perché se non sei alto, capito? Con quell'apparecchio lì è come quando esco io con quel polma, tale uguale. Per me non c'è manco un vatto quel baracchino, te lo dico io. Non l'ho controllato quel vatto, ma non mi viene quel sospetto. No, in quello che ho io, capito, nel polma che ho io, secondo me non dà manco un vatto quella apparecchio lì, perché c'è un abisso tra questo qua e l'altro. Il segnale è tutto. Mamma mia. Dimmi. Ragazzi, mi hai fatto da mangiare la sopra. Adesso glielo do. Non la vita, ragazzi. Se glielo do la mangiare a tutti, adesso glielo do. Glielo do la cimenta, glielo do. Se spuso la mangia, glielo sbatto a terra. Arrivo subito. Ma non le mangia cosa? Io ho comprato le ruspe con la roba lì, non le mangia. Ah, da po', questo è 10, com'è? Come è? Come è? dietro l'altro microfono, fischia e sento tutto voi come si chiama, figurati, è l'altro parlato. Questo vanno adesso alle 6:10, quindi prendi avanti, è amplificato. Dicevo che c'è un QRM elettrico tipo phon lavatrice, però è costante, è fastidioso, pungente. No, dicevo, c'è QRM elettrico, sento un QRM elettrico, lo sento sotto di te, ed è pungente, abbastanza fastidioso. Tipo phon, lavatrici, non so definirlo, è continuo però. È veramente seccante sotto di te. Comunque il segnale, siamo lì 6, 8 e mezzo pieno a questo smitter. Sì, 8 e mezzo pieno, lì 9, siamo lì, dai. Quanto hai detto che hai prima? Ho sentito 2, quanto? Cominciano a essere tantine. Io sotto il 2 nemmeno accordo, proprio manco, a parte che il cordatore non è più andato. Però 2,8 cominciano a essere seccanti, quindi meglio passaggi corti. Chi c'è rimasto qua? Luca c'è ancora, chi altri c'è? Vabbè dai, è l'ora di chiudere. Mamma mia, che giornata strana. Ho bevuto il caffè, Antone, ma tutto buriato lo stomaco, lo sai. Boh, sta uscendo strano il caffè da questa caffettiera. Prima lo faceva più schiumoso, più buono, più fragrante. Adesso sembra fatto con la mocca. Boh, secondo me sta perdendo la pressione, perché è un po' vecchia questa macchina il caffè. Vai, Antone. Si occupa vedendo l'azzurra, dai. Ciao. No, e il cane sta andando da mangiare lui. No, no, sta andando a mangiare il cane, ha fatto la schietta, ha fatto la schietta, ha fatto la schietta, Cantone, veramente brutta quella modulazione, ma brutta, proprio barattolo, barattolo. E se metto il microfono ormai è meglio, va. Oia, cavolo. Dai signori, io vi abbandono. perché c'ho anche un po' di mal di testa. Io accendo la TV, vediamo se c'è qualcosa degno di essere visto, ok? Ciao Fabio, Antonello, eccetera, tutti quelli d'ascolto. Allora, è un film panoramico. L'autorizzazione per avere il numero? Ah, sì, dagliela. No, tienilo, per ogni avvenienza. Come ho sempre detto, per cose importanti, magari. Va bien. Io sono fuso del tutto. Ehi, verso il barattro. Nato pessimista. Va bene, è questione di gusti. Ciao Fabio, ciao Antonello, buonanotte, QRT esecutivo, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo. Alle prossime. Però esce bene, esce molto meglio delle F10. Sì, sì. Beh, ma adesso chi è? Quella che tu c'è, no? Allora, mi dice attaccato a questo accesso di malattia. Sono quello lì. Ah, mettiamo dietro così questo, ma adesso niente, tanto mi sembra per la collocazione. Adesso mi attacco la mano, sempre che mi sono venendo le visibility, che aspetta. Adesso sì che ci siamo. Fabio. Adesso già va bene. Stai cambiando la cosa, eh? Così amplificato sto. Così sì. Dai, questa è la mia modulazione. C'è proprio la frase. Comunque, non so se sono una sensazione. L'ho fatto nella 35. Se ce l'ho bene. Adesso ce l'ho bene, ma con la stazione. Non è finale. No. E come facciamo qua? Non c'è anche una scuola, facciamo qua. 9:10. Qui, vabbè, quello che contento. Posso anche raccare una antenna forse. Sì, e poi parli col muro. Due parte di già li faccio. Cos'è l'intendato? Ecco, c'è il secondo pezzo all'M600. Non mi sono accorto che c'avevo la trasparata su 1.0, però evidentemente capito. Pesca, pesca. Io lo so che pesca, che pesca. Il giorno mio, se riesco a mettere una stazione, magari, te l'immagini. Ma non riuscirebbe se lo metti in. Beh, adesso comunque non è fa diventare come ieri la stazione. Si riesce fino a un po' di taglio. Come l'intenzione è perfetta, eh. Poi tra l'altro, cambiando lo schema di un filtro che c'ha, ho capito come allargarsi una DC in ricezione. Non sono portato sulle redskin, praticamente adesso quando tengo le redskin a metà è a zero, quando alzo mi fa la certificatore, capito? Sì, caro, gioca a prezzo. E così è, nel frattempo, Luca, non c'è più, Natale, ma sono fatto due redskin, e qui ti ascolto, che non sono molto contenti che stia parlando io, perché non è veramente tanto un passo. E ti sentono tutti. Ma ragazzi, Però poi alla fine ti dico, Fabio, non ti sento, sei mezzo a quello che è. Però quando ti vogliono ascoltare bene, a Luca Valori ti sentono bene lo stesso, vuol dire? E infatti, cioè così già. Ma domani mattina che cosa devi fare? Domani mattina devo andare a recuperare quel capo e fare con l'antenna. Se vuoi scendere con me, passiamo da quello là e ritiriamo quel capo con la bobina. Ma che zona è? Giù? Via. Ma come ti devi andare? Mi ha detto di telefonargli che non c'è problema, capito, per scendere. Capito? Capo. Ma tu ci credi che mi hai fatto con questo? La stazione si alza, sì, vabbè, le rete, ma si alza anche il rosmetro. Ma ci credi? Si alza fino a 2, cioè cosa sta rubando le centrali, le cose, spiega un po'. Ah, boh, non lo so, la verità non lo so, ma è una cosa ben strana comunque. Già, quando stavo giocando, va bene, con il giocatore di campo si sbatte l'ago, sente il rumore che si sbatte l'ago, arriva quando scala. E poi non posso usare neanche un piccato, perché via ne rientri. Quando spara sotto la stazione, secondo me spara un pezzo sotto a quali frequenze, quando spuria c'ho io. Sì, vabbè, spuria o spuria, l'importante è che esci da voi, c'è la bobbia in Napoli. Sì, però non fa, non è più bene, però poi entro, però vale la fastidio, beh. Sì, non ti credo, vero? la portata non c'è adesso, non c'è nulla. Allora l'audio si è già abbassato, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, questo colpino ne prende. Lo so, però ne prende il colpo in quella, ma con questo sempre questa. No, infatti, ma la cosa bella che ha parlato, magari in sessione qualche vita ce l'ha difficoltà, però l'avevo ritoccato apposta per non perdere i colpi, perché io più a tempo ci avevo, già lo sai che ci avevo, cioè per lo altro. Mi bisogna che ci andiamo questi giorni in quel palazzo, tutto il centro, ci informiamo con il capo.